tu signora, non ci siamo capiti. Signora, stia a sentire quel che le dico. No al tuo amore dico no, no ai tuoi baci dico no, no al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei anchia, ma guarda che allo specchio non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu esisti per farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Hey tu, signora, non ci siamo capiti. Signora, se senti quel che le dico. No al tuo amore dico no, no ai tuoi baci dico no, no al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei anchia, ma guarda che allo specchio non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè, signora, nel tè, signora, nel tè, signora.